Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In vista dell'arrivo della Befana, una puntata speciale del Cacciatore di libri dedicata ai libri per bambini e ragazzi. Insomma, oltre alle solite cioccolate, caramelle, insomma, dolciumi di qualsiasi tipo, sarebbe bello far trovare ai bambini e ai ragazzi anche un libro piacevole da leggere magari in questi ultimi giorni di vacanza. Partiamo dagli adolescenti. C'è un libro che avevo letto un po' di tempo fa, è del 2014, che mi aveva colpito molto, mi era piaciuto per la schiettezza, anche per la tenerezza che ispirava. Si intitola Trevor, sottotitolo Non sei sbagliato, sei come sei, scritto dall'americano James Lechesne, pubblicato in Italia da Rizzoli. Diciamo che questo libro è un po' solo la punta dell'iceberg, diciamo che fa parte di un progetto più vasto chiamato appunto Trevor Project. C'è una sorta di telefono amico al quale si rivolgono gli adolescenti che subiscono bullismo per la propria identità sessuale nel momento in cui si dichiarano gay. Del Trevor Project fa parte anche per esempio un cortometraggio che alcuni anni fa aveva vinto l'Oscar proprio appunto per la sezione cortometraggi. Ma veniamo a questo romanzo che veramente consiglio un po' a tutti di leggere. Protagonista è Trevor, un ragazzino di 13 anni. È un ragazzino entusiasta, creativo, ama l'arte, ama Lady Gaga, e per questi suoi augusti diciamo che i compagni di scuola iniziano a esercitare nei suoi confronti bullismo, diciamo che lo etichettano come gay e viene deriso dai compagni di classe. In realtà viene anche un po' frainteso dagli insegnanti e gli stessi genitori non sanno un po' come cavarsela, ma Trevor riuscirà a trovare la sua strada ed è sicuramente un piccolo romanzo che insegna molte cose un po' a tutti. Allora, l'idea del libro e del Trevor Project è nata nell'autore sentendo una notizia purtroppo molto molto triste, cioè riguardo il suicidio, la percentuale di suicidio fra i giovani gay. Sentiamo allora come ci ha raccontato la nascita del Trevor Project James Lechesne. Well, I think it's interesting to note that it was actually on the radio that I heard this news report about È interessante notare come in realtà è alla radio che ho sentito la notizia di questi suicidi tra gli adolescenti. Ma veniva solo accennato il fatto che un terzo dei suicidi tra i giovani era dovuto all'omosessualità. Per me era una cosa folle che ci fosse proprio un'epidemia di suicidi tra i giovani gay, mentre io vivevo a New York circondato da persone omosessuali che erano felici. E nessuno faceva niente per combattere questo fenomeno. Quindi mi sono seduto e ho fatto l'unica cosa che sono in grado di fare, cioè raccontare una storia. Sat down and did the only thing that I really know how to do, which is to how to tell a story. Come hai creato il personaggio di Trevor? Insomma, immagino che sia in parte autobiografico, però insomma, che caratteristiche gli hai voluto dare? Well, the first thing that I did was I actually looked through my journals that I've been keeping since I was probably about 14. La prima cosa che ho fatto è stata andare a rileggere tutti i miei diari, che tengo dall'età di 14 anni. Non è stato difficile, leggendo quello che scrivevo, capire quanto fosse dura crescere e scoprirsi diverso all'interno della mia famiglia e sentirsi solo. Ho parlato anche con tanti amici, più giovani e più grandi di me, ed ho capito che ogni persona gay o lesbica con cui ho parlato ha avuto questo momento nella propria vita in cui hanno pensato: I can't do this. I can't live my life being hated and on the outside of a society that won't accept me. And è troppo dura, non ci riesco. Non posso vivere la mia vita odiato dalle persone ed emarginato dalla società. Così mi sono reso conto che era un'idea universale. Era una storia che riguardava tutti, non solo gli omosessuali. È difficile superare l'adolescenza. È difficile venire al mondo e capire che ci sia posto anche per te. To come into the world and make sense of it and to feel like you have a place in it. Penso che il bello di questo libro è che in realtà riguarda un po' tutti noi, indipendentemente dal fatto se siamo gay o meno, perché l'adolescenza è un periodo molto difficile della vita in cui si fa fatica a capire chi si è. Secondo te chi è il pubblico che legge il tuo libro? Well, of course I feel like it's for everybody. But I think it's especially helpful for people who aren't gay and aren't lesbian and aren't transgender. Penso sia un libro per tutti, ma credo possa essere d'aiuto più per le persone che non sono gay, lesbiche o transessuali, per coloro che non hanno esperienze in questo mondo, perché la storia diffonde un messaggio che è di amore per coloro che semplicemente amiamo e non riguarda il sesso. Si parla di amore, un sentimento che viene naturale a tutti. Non è una cosa strana, è una cosa bellissima e straordinaria per tutti. Penso che per alcune persone sia difficile capire quanto sia una cosa naturale. E per quel che riguarda Trevor, lui neanche sa di essere gay, non sa di provare questi sentimenti, non si identifica in nulla. Non è che sceglie il suo orientamento sessuale, è il suo orientamento che sceglie lui. He doesn't choose it, it sort of chooses him. È molto bella, è molto emozionante la lettera che Trevor, il tuo personaggio, scrive ai genitori prima di, diciamo, tentare il suicidio, di far finta, insomma, comunque di provare a tentare il suicidio. Lui scrive ai genitori che ha provato a guarire, è come se si sentisse malato perché è diverso dagli altri. Questa effettivamente è una sensazione che accompagna spesso i ragazzi e le ragazze che si sentono appunto gay o lesbiche, quindi diverse dai loro compagni. Well, you know, I think so many of the messages that we get all around us are messages about being a certain way, right? Being heterosexual, being a man, being a woman. Molti dei messaggi che riceviamo da ogni parte sono messaggi che ci dicono come dobbiamo essere. Essere etero, essere uomini, essere donne. Messaggi che a volte sono in contraddizione con quello che poi noi siamo. E non mi riferisco solo ai gay o alle lesbiche, ma a tutti. Siamo costantemente bombardati da messaggi che ci dicono come vivere e che standard di vita avere. L'essere umano è così straordinario, così complesso, che l'idea di non entrare in una qualche categoria crea nelle persone la convinzione che ci sia qualcosa di sbagliato in loro. You don't fit this mold, I think really creates this sense of in people that there's something wrong with them. And I think it's especially so for gay and lesbian. E credo che questo sia ancora più vero per i giovani omosessuali, perché crescono in un mondo in cui non si vedono rappresentati. Forse adesso non è proprio come prima, ma quando ero un bambino non c'era niente intorno a me, non solo che mi rassicurasse sul fatto di essere una persona normale, ma neanche che mi rassicurasse sul fatto che io potessi esistere. Era qualcosa che potevo sapere solo dentro di me. But there was also nothing in the environment that told me I existed. It was just something in my heart that I knew. In questi 20 anni, da quando è nata l'idea di Trevor, lo spettacolo teatrale, il cortometraggio che poi ha vinto l'Oscar, poi il libro, sono cambiate insomma tante cose, anche i personaggi di riferimento, diciamo, dei ragazzi gay. Tu prima mi raccontavi che inizialmente il personaggio che Trevor amava era Diana Ross e poi è diventata Lady Gaga. Ci vuoi dire come hai cambiato un po' i riferimenti culturali in questi 20 anni? You know, I think that for many young people in the States, and I think probably here too, it hasn't changed that much. It's still very difficult. Per molti giovani negli Stati Uniti, ma credo anche qui, non penso che la situazione sia cambiata più di tanto. È ancora tutto molto difficile. C'è questa idea diffusa che ora sia tutto più facile, che tutti possano dire liberamente di essere gay. È vero in città come New York, San Francisco, Los Angeles, nelle grandi città, insomma. Ma nel resto del paese c'è ancora una mentalità molto conservatrice. But in the middle, it's very, still very conservative. And, you know, at the Trevor Project, on the Lifeline, we talk to kids every single day who have no one to talk to. Con il Trevor Project noi parliamo ogni giorno con tutti quei giovani che non hanno nessuno con cui parlare, né un genitore, né un insegnante, un amico, nessuno. Spesso siamo noi i primi a cui questi ragazzi dicono liberamente di essere omosessuali. Il tasso di suicidi negli Stati Uniti è rimasto agli stessi livelli. I ragazzi fanno coming out in età più giovane rispetto a prima, ma ci sono meno, per così dire, reti di sicurezza su cui contare. Ciò che è cambiato piuttosto è che c'è una consapevolezza maggiore in un pubblico più adulto, in una generazione più adulta, che questo fenomeno è qualcosa che loro vogliono cambiare. That they want to change, that they don't want young people to be in danger of hurting themselves, because of who they are. La generazione di adulti di oggi ha la consapevolezza che i giovani gay di oggi non possono e non devono farsi del male perché sono quello che sono. Una delle cose più belle del venire qui in Italia è stata parlare con i più giovani e rendersi conto che loro non si fanno problemi con i gay o le lesbiche. Adesso il compito delle nuove generazioni sarà quello di fare in modo che tutti siano davvero uguali e che l'amore di tutti sia considerato allo stesso modo. So it's up to the next generation to really make it so that everybody's equal and everyone's love is valuable. In Italia, per esempio, noi non abbiamo ancora, siamo uno dei pochi paesi europei a non aver ancora riconosciuto il matrimonio gay o comunque le unioni civili di fatto, insomma, che riguardano anche le persone gay e lesbiche. Guardiamo l'America in genere come il paese più progressista in questo senso, ma in realtà, come dicevi tu, non lo è, perché a parte le grandi città, poi il resto dell'America è molto conservatrice. Cosa si può fare concretamente per cercare di cambiare proprio l'atteggiamento culturale delle persone, oltre a scrivere libri, naturalmente, film e spettacoli teatrali? Well, I think more than change of mind, it's a change of heart. Più che cambiare una predisposizione mentale, dobbiamo cambiare una predisposizione d'animo. Bisogna capire che si tratta di qualcosa che ha meno a che fare col sesso e più con l'amore, che non è una cosa che si sceglie, che non è una cosa che dobbiamo imparare, e che è una cosa che facciamo in modo naturale. It's something that we do naturally, and every person knows how to love. It's just, it comes naturally to people. Se le cose negli Stati Uniti sono cambiate, è anche perché le persone hanno combattuto molto duramente contro l'indottrinamento religioso prestabilito e contro le organizzazioni religiose piene di odio nei confronti dei gay. E questo risentimento e queste parole piene di odio hanno un effetto verso coloro che vogliono amare anche Dio, che vogliono andare in chiesa, ma cui viene detto che non possono farne parte. E inoltre, le persone hanno combattuto anche contro i politici che facevano lo stesso tipo di terribili ragionamenti. Queste parole ricadono sui più giovani, che le percepiscono in maniera molto personale. È successo anche a me. I know I did when I was a child, you know, you just get the message that it's not okay. Quando ero bambino, l'unico messaggio che ho recepito da questo tipo di discorsi è stato semplicemente che non andavo bene. E penso, soprattutto per le generazioni più adulte, che si debba affermare con forza che oggi questo non va più bene. Fare questi discorsi non va bene quando i nostri giovani corrono un rischio così grande. When our young people are so in, you know, in, at risk. In questi 20 anni di Trevor Project, tu hai raccolto tantissime storie, tantissime testimonianze, confessioni di ragazzi gay, ragazze lesbiche che hanno subito appunto bullismo e diversi tipi di problemi. Ci puoi raccontare così una delle tante storie che ti ha colpito particolarmente? Well, you know, the story that comes to mind, so, you know, is actually one of the very first stories that came to us. Quella che mi viene in mente in realtà è una delle prime storie che ci è arrivata. La prima notte in cui il Trevor Project stava ricevendo telefonate, nel 1998, stavano trasmettendo Trevor in TV e ricevemmo oltre 1500 telefonate da ragazzi di tutto il paese. Tra tutte quelle chiamate, ce ne fu una che arrivava da una ragazzina di colore. Avrà avuto 13 anni. Chiamò e disse: "Io non sono gay, ma ho riconosciuto me stessa nel personaggio di Trevor e so cosa si prova a sentirsi diversa e a non essere accettati. Ho voluto chiamare per poter parlare con qualcuno. Per me, Randy e Peggy, i due cofondatori del progetto, fu davvero il primo momento in cui capimmo che si trattava di un problema molto più grande dell'essere gay o dell'essere lesbica. Era un problema che riguardava essere un essere umano e affrontare questo periodo di enormi cambiamenti, confusione e complessità, cercando di restare aggrappati a qualcosa che sai di te stesso, ma allo stesso tempo voler appartenere a qualcosa di più grande di te." Was an issue of being a human being and going through this period of enormous change and confusion and complexity and trying to hold on to something that you know about yourself and at the same time wanting to belong to something bigger than yourself. Questo era James Lecesna, autore di Trevor, pubblicato in Italia da Rizzoli, un bel romanzo, l'avete sentito un po', sulla lotta di un adolescente per capire se stesso e per farsi accettare. A proposito di adolescenti, diciamo che anche nel 2015 è stato un po' il caso editoriale dell'anno, ossia la serie, la saga After di Anna Todd, dell'americana Anna Todd. Inizialmente lei aveva scritto, diciamo, queste sue pagine, questi suoi racconti su internet, poi un editore si è accorto di lei, è stata pubblicata in cartaceo, ha avuto successo veramente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, poi appunto questo successo è diventato internazionale. Diciamo che After è una saga soprattutto per ragazzine, è una saga romantica dove c'è anche però un pizzico di sesso, insomma. Ci sono 5 volumi: After, poi Un cuore in mille pezzi, Come mondi lontani, Anime perdute, Amore infinito. In Italia i libri sono tutti pubblicati da Sperling e Kupfer. Poi un'altra scrittrice molto molto amata dalle giovani italiane, e lei si chiama Jamie McGuire, è l'autrice di libri come Uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu, Un disastro per sempre, insomma sempre la parola disastro ritorna, e poi c'è Uno splendido sbaglio, Una meravigliosa bugia, Un magnifico equivoco, Un'incredibile follia, insomma sono libri legati, sono piccole trilogie, libri legati fra loro, tutti pubblicati in Italia da Garzanti. Jamie McGuire è diventata veramente un fenomeno anche da noi in Italia. Alla scorsa edizione del Salone del Libro l'ho incontrata, ma soprattutto ho voluto incontrare le sue fan per capire che cosa piace dei libri di Jamie McGuire. Beh, innanzitutto me li sono letti, allora ho cercato di capire perché tutta questa passione per questi romanzi, che sono romanzi fondamentalmente romantici, come ce ne sono tanti. Beh, secondo me il pregio di Jamie McGuire è innanzitutto quello di scrivere bene, che non è da poco, insomma, quando si parla di romanzi romantici dedicati alle ragazzine, ma poi parla soprattutto di storie vere, cioè di ragazzi che vivono magari in famiglie disfunzionali, in famiglie complicate, genitori separati, non hanno buoni rapporti magari con i fratelli, con le sorelle. Quindi quello che le ragazzine trovano nei romanzi di Jamie McGuire, a parte il romanticismo, quindi il sogno, la favola, e anche e soprattutto il realismo. E allora sentite un po' che cosa mi hanno raccontato alcune di queste ragazze. Il mio preferito è Uno splendido disastro, perché mi piace come storia, mi piace di quel genere. Ti capita di leggere altri libri a parte Jamie McGuire? Quali sono le tue letture preferite a parte lei? Cose come Colpa delle stelle, queste storie un po' romantiche, cose del genere. Mi piacciono molto i romanzi d'amore, storie romantiche che affascinano, soprattutto appunto questa scrittrice, Jamie McGuire. Tipo una fuga, io trovo nelle parole qualcosa che mi riguarda, qualcosa che sento dentro, è una fuga. Allora, ho letto la saga sempre di Jamie McGuire, Uno splendido disastro, cioè è una storia che mi ha affascinato tanto, perché rispecchia un po' il mio modo di essere, la mia vita, quindi ho ritrovato molte cose che mi appartengono. Mi piace il modo in cui scrive e quello che racconta, perché comunque quello che racconta non sono, cioè molto spesso i libri d'amore raccontano sempre le stesse cose, però lei è capace di raccontarle in modi diversi. Perché comunque scrive molto bene, cioè ho letto tanti libri d'amore, ma i suoi sono davvero, cioè ti rimangono dentro. Queste erano le fan, dunque, le fan italiane di Jamie McGuire. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri per bambini e ragazzi. Sai, uno da Ciro a Cocoruno, basta la numero, rimane le mani, vanno pure a Ciro. Un problema, non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Il cacciatore di libri. se non l'avete già fatto per Natale, se non l'avete già fatto per Capodanno, insomma, la Befana è un'ottima occasione per regalare ai bambini il diario di una schiappa. È veramente un fenomeno mondiale. In Italia la serie, ormai arrivata al 9° volume, ha venduto più di 2 milioni di copie, nel mondo più di 150 milioni di copie. È una serie che piace molto moltissimo ai bambini, diciamo dalla quarta elementare in su. Posso dire testato per voi, perché è uno dei libri che regalo spesso ogni volta che escono i nuovi volumi, naturalmente, ai miei nipotini che hanno 9 anni. Quest'ultimo volume del diario di una schiappa, sempre scritto da Jeff Kinney, si intitola Portatemi a casa, e poi capirete perché della trama. Per farci raccontare un po' sia la trama di questo nuovo romanzo che alcune curiosità sul fenomeno schiappa, abbiamo sentito la traduttrice italiana di tutte e 9 i volumi, Rossella Bernascone. È un bellissimo viaggio, bellissimo per gli adulti ovviamente che lo leggono, un bellissimo viaggio on the road, di quelli che piace ai genitori organizzare per i ragazzi, insomma, uno riesco a empatizzare la mamma di Greg, io, che si immagina di far vedere ai figli questo e quello, di fare una vera esperienza di famiglia tutti insieme, ma come sappiamo, avendo letto gli altri libri della schiappa, le cose non vanno mai esattamente come uno se le prefigura, e quindi in questo viaggio stipati in un'automobile familiare, ma pur sempre in 5, e poi anche con un maialino, quindi insomma questa macchina è piena di umani e di animali fatti entrare un po' volutamente, come il maialino che a un certo punto si portano a casa, oppure vengono anche invasi da uno stormo di gabbiani. Insomma, le avventure sono davvero davvero tante, e le trovo sempre esilaranti, insomma, rido traducendolo, che... E ridiamo anche noi adulti, devo dire, io lo regalo sempre ai miei nipotini, lo dichiaro pubblicamente, lo leggo insieme a loro, mi diverto molto. Tra l'altro... Ma lui l'aveva pensato per gli adulti, in effetti, inizialmente, come diario online, lui l'aveva pensato per un pubblico adulto, diciamo come i Peanuts, ecco, e immagino, se ricordo bene quello che lessi a suo tempo, che poi l'editore abbia pensato che ne poteva uscire un prodotto interessante, insomma. Ecco, tra l'altro, in quest'ultima puntata del diario di una schiappa, che si intitola Portatemi a casa, c'è un aneddoto legato alla traduzione, nel senso che l'autore Jeff Kinney ha deciso, proprio ed esclusivamente per l'edizione italiana, di, come dire, rifare una vignetta. Ci può spiegare il perché, che cosa è successo? Sì, questo va, insomma, è una delle molte prove della generosità dell'autore, perché il fratello grande, che è un po', insomma, un lazzarone a scuola, diciamo, non è uno studiosissimo, ha la solita lista di libri che anche i nostri ragazzi hanno da leggere per l'estate, e lui pensa bene di prendersi film invece da vedere per evitare di leggere. Tra l'altro, aperto un inciso, il diario di una schiappa, lo sappiamo, è un libro che ha avvicinato alla lettura moltissimi lettori che non amano altri generi di libri. Comunque, tra le altre cose, lui deve leggere The Lord of the Rings, Il Signore degli Anelli. Però sbaglia quando prende il DVD e prende The Lords of the Ring, che nel caso specifico sono degli atleti del wrestling, i signori del ring per l'appunto. E quindi, insomma, non avrebbe capito nulla guardando quei film. Non si poteva tradurre, bisognava in qualche modo mettere nel fumetto che leggeva la versione inglese del Signore degli Anelli, insomma non andava bene. A me è venuto in mente che noi solevamo chiamare Yuri Keiki il Signore degli Anelli, e allora gli ho scritto e gli ho detto: senti, c'è sto problema, insomma, che sarebbe, virgolette, facilmente risolvibile, ma insomma sarebbe possibile risolvere, perché il grosso problema era che si vedeva la vignetta con i signori del wrestling, mi spiego. Gli ho spiegato la cosa e lui mi ha scritto che era in consegna con l'ultimo, questo dalla copertina nera, che era con l'acqua alla gola, eccetera, eccetera, ma che avrebbe provato a farlo, e sul filo di lana ci ha mandato la vignetta con il Signore degli Anelli, nel senso nel senso di riferendosi a Yuri Checchi. Esatto, e io sono proprio stata immensamente grata a una persona che con tutto quello che ha da fare, anche diciamo con le arie che potrebbe darsi, una persona che abbia venduto così tanti libri, magari uno potrebbe anche dire, sa, no, non si tocca, il testo è così, eccetera. Invece umilmente, ne preso nelle deadline della consegna, si mette a, ancora a disegnare una cosa per il pubblico italiano. L'ho trovato veramente molto generoso e gli sono veramente grata. Ecco, lei che traduce da sempre praticamente La Schiappa, questo è il nono volume della Schiappa, sì. Abbiamo detto che si diverte anche traducendolo e così via, ma secondo lei qual è il segreto che veramente c'è dietro La Schiappa? Perché tanti e tanti bambini, diciamo dalla quarta elementare in su, si appassionano così tanto a Greg e a tutti i suoi amici? Guardi, se io non ho la risposta a questo, ma adesso le farò un paragone che sembra veramente blasfemo, ma è come il segreto dietro Mona Lisa. Non sto dicendo che La Schiappa e La Gioconda siano la stessa cosa, ma sto dicendo che ci sono delle alchimie tra terra e cielo che fanno accadere degli eventi che non sono spiegabili, nel senso che io ho letto tantissima letteratura per ragazzi, la insegnavo anche, ci sono dei libri meravigliosi che non hanno questo impatto, e questo è davvero un libro molto divertente. Certo, c'è il fatto che ha fumetti, c'è il fatto che il carattere in cui è scritto avvicina anche alla lettura ragazzi che magari non lo so, hanno difficoltà a leggere per dislessia, per quello che vuole. Però se, non saprei dire, è come un dolce perfetto, ecco. Non è che prendendo gli ingredienti e separandoli si riesce a capire il segreto. È così, tra l'altro, è così libro dopo libro, perché questo qua è sempre in seconda media. C'è la Willing Suspension of Disbelief, fa diverse vacanze senza crescere di età, mi spiego, ma noi va benissimo così. Sì, infatti rimane cristallizzato nel suo periodo, Greg, sì, e tutti, sì, e tutti gli altri, insomma. Quel momento, ma non si può neanche dire, sa, per gli adulti può funzionare perché è quel momento della nostra vita, ma lo leggono tanti ragazzini che non ci sono ancora arrivati a quel momento, ragazzini e ragazzine, perché in genere si dice che è molto amato dai maschi, sempre uso molte virgolette quando dico questo, nel senso che tendenzialmente i ragazzi leggono meno delle ragazze, tendenzialmente, però io vedo anche alle elementari letto da molte bambine, per esempio, quindi non è neanche dire lo spirito di identificazione, eccetera, non glielo so spiegare. È comunque una magia esatto. Vedere i bambini leggere, io vedo appunto uno dei miei nipotini Luca che si nasconde sotto le lenzuola per leggere, rileggere, sì, rileggere lo stesso volume della Schiappa, sì, e sì, per uno che ama i libri, secondo me questo è il regalo più grande, veramente. È bellissimo. E poi lei dice i miei nipoti, che adesso alcuni sono grandi, sono più che ventenni, ma ovviamente ho incominciato 10 anni fa, sono stati i miei grandi consulenti anche per la lingua della Schiappa. Ecco, quindi si è fatta consigliare, insomma, dai ragazzini, diciamo assolutamente, così. Assolutamente, la mia nipote più giovane è una lettrice di bozze eccezionale, è veramente puntualissima nei suoi riscontri, sì, mi hanno aiutato molto, sì. E questa era Rossella Bernascone, la traduttrice italiana del Diario di una Schiappa, arrivato ora, come dicevamo, al nono volume dal titolo Portatemi a casa, pubblicato sempre da Il Castoro. Sempre da far trovare nella calza della Befana per i bambini, i libri per esempio di Geronimo Stilton, c'è tutta la saga, tutta la serie del viaggio del regno nella fantasia e del ritorno nel viaggio nel regno della fantasia, insomma sono libri veramente appassionanti per i bambini, diciamo in età scolare, spesso sono anche libri dove si possono toccare delle pagine, grattare, odorare dei profumi o delle puzze, come nell'ultimo uscito dove c'è il profumo dell'amicizia, per esempio, ma c'è anche una pagina con una puzza terrificante. Ve lo posso assicurare, veramente testato per voi. E poi ancora invece per i bambini veramente piccoli, diciamo in fase prescolare, non ci dimentichiamo del fenomeno Masha e Orso. Masha e Orso, cartone animato russo che ha conquistato veramente il cuore dei bambini italiani, ma anche di altri bambini, insomma di altri paesi. Diciamo che ha sostituito la fase Peppa Pig. Naturalmente di Masha e Orso ci sono libri, libricini, libri da colorare e così via, quindi insomma se dovete fare un regalo per la Befana per bambini in fase prescolare andate sul sicuro, Masha e Orso sicuramente è qualcosa che a loro piace. Per concludere questa puntata, che in vista così dell'epifania degli ultimi regali abbiamo voluto dedicare ai bambini e ai ragazzi, vi faccio ascoltare un po' di voci, un po' di testimonianze dei ragazzi, proprio degli adolescenti dai 13 ai 17-18 anni, per capire veramente che cosa piace a loro leggere e che cosa invece non piace, come per esempio spesso le letture obbligate date a scuola. Sentite un po' questi ragazzi, le voci sono state raccolte da Adriano Palazzolo. Genere di libri non lo so, mi piacciono i libri gialli oppure anche quelli classici, dipende. La solitudine dei numeri primi. A scuola sì, ci consigliano letture soprattutto di libri classici e non molto attuali. Vi piacciono o li leggete controvoglia? Non li amiamo, diciamo. Luigi, ho 16 anni. Sì, leggo. Un po' libri storici soprattutto. Ultimo libro che hai letto? Giorni in Birmania di George Orwell. Libri di avventura e di storia. Di Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Le letture che vi consigliano a scuola vi piacciono? A volte sì, a volte no. Qualcosa che ti hanno consigliato e che ti è piaciuto e qualcosa che invece non ti è piaciuto? Beh sì, vabbè, anche Promessi Sposi sono molto interessanti. Gaia, 14 anni. Sto leggendo Cose che nessuno sa di, non mi ricordo, Alessandro Devenia. Il mio libro preferito è La solitudine dei numeri primi. A scuola vi consigliano delle letture, vi piacciono o no? Sì, ma sono brutte, cioè nel senso non mi piacciono, non sono il genere che preferisco. Tu perché leggi? Perché mi piace, non lo so, perché una volta che leggo il libro mi trascina, nel senso mi lascia trascinare dalla storia e quindi mi piace. Lucrezia, 14 anni. Di solito sto leggendo un sacco di libri, infatti è una cosa un sacco strana. Sono praticamente delle storie che trovo su un sito internet che si chiama Wattpad e ultimamente leggo quelle. Leggo di solito libri di avventura. Alcune volte leggo libri di storia, soprattutto per scuola. Di solito leggo molto nel periodo estivo perché nel periodo di scuola non ho molto tempo. L'ultimo libro che hai letto? È stato La masseria delle allodole. Mi chiamo Andrea, ho 13 anni e leggo fantasy, avventure e cose così. Mi chiamo Eleonora, ho 13 anni, leggo soprattutto fantasy e le saghe, quelle da più libri, perché mi piace che i libri continuano e che non si finiscano a un solo volume. Vediamo che libri hai comprato. Avevo a casa il primo volume di Unica di E.J. Alibis e ho preso il secondo e il terzo. Se posso dire, sui libri che leggo maggiormente sono i generi fantascienza, manco horror, thriller e dramma. Insomma, l'avete sentito, i libri consigliati a scuola piacciono poco. Oltre, diciamo, che alla letteratura, oltre ai classici, forse si dovrebbe istituire l'ora di narrativa, cioè libri, romanzi per il puro piacere di leggere anche a scuola. Ma questa naturalmente è una mia idea personale. Grazie in regia a Pietro Lacorte per averci assistito in tutta questa puntata speciale dedicata ai bambini e ai ragazzi in vista dell'Epifania. Come sempre trovate tutte le puntate, se non avete fatto in tempo anche a scrivere i titoli, su Radio24.it in podcast, e come sempre potete seguirmi su Twitter per essere sempre aggiornati. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.